funzionare, lascialo stare così com'è. Io rispetto Luca perché so che le sue cosettine se le fa. Quella là gli ho detto non toccarla, non fare manovre, perché io ti sto dando solo un consiglio, puoi sempre fare con voi, perché i bruci finali, il picco di modulazione è superiore alla taratura che c'ha la MC, quindi lo bruci, lo crepi. Mi vabbè, io vabbè, sento benissimo, abbassa leggermente la preamplificazione, non gridare. E cosa devo fare allora? Abbassa appena la preamplificazione del microfono, abbassa. Poi, se hai toccato anche la potenza, ricordati che quello stadio finale è sino a 10 watt in AM e 15 in banda laterale. Poi, i consigli te li ho dati, fai che si uniti i bianchi. Allora, poi arrivo anche a 20 gradi, pure a 25. Bravissimi, non è come il tuo, lascia perdere Luca, tu fai quello che vuoi nella tua radio, io glielo sto dicendo per lui, per carità di Dio, poi può fare quello che ti piace. Quello stadio finale ha misurazioni tecniche, è 10-15 watt, punto e basta, non è il Typhoon e non è Lafayette fa un'altra cosa, quello non è uguale a Lafayette, se tu guardi la componentistica è completamente diverso. Vabbè, eppure sono curioso di vederla con la radio aperta, insomma, me è curioso, ma non me è parola. Io sono curioso in tutto lui, però quando tocchi i fasci, aspetta così, cazzo, con la radio, era con i sigilli, gliel'ho detto a Pierpaolo, io te l'ho detto a Pierpaolo, guarda che la radio l'ho usata due mesi, ed è perfetta, non ha bisogno di niente. 10 modulati in AM e 15, 17 in banda laterale. Lasciala così. Lo stadio finale nel reggente c'è un transito, se l'hai visto, che ha lo scambio tra l'AM, l'FM e l'SSB. Non so se te ne sei accorto. Il telefono non ce l'ha quello. Vuol dire che quel transito serve per comparare le tre bande. Non lo ducca, cazzo, non lo ducca, va bene, stai uscendo una bomba. Non lo ducca. Vabbè, no, io lo lascio così adesso, poi vediamo adesso, poi lo voglio guardare meglio, io adesso ho passato la rubata, io ho messo il receiver di nuovo come era prima, vediamo. Il microfono stai usando? Sempre il DM1000. Il DM1000, va bene. Sì, un bel forte qua, sì, un bel forte, quindi secondo me la potenza di quella radio è oltre i 20 watt, secondo me. No, sta. Però sento un bel male. Ma te la pure quella radio, che peso. Oh, Pierpaolo, sento un bel cupo, fai visibilmente un microfono, praticamente, ma non fai come vuoi, comunque, vabbè. Non c'è problema, però, non dico di, la voglio fare, mica devo toccare, però vorrei aprire la mia, aprire la sua, per vedere se è così come stai dicendo tu, così, per curiosità. Io ci scommetto, non dico il collo, ma quasi, che è come la componentistica uguale. È uguale, non è uguale, se tu ti prendi la lente di ingrandimento e ti guardi le piste, sono molto più fini, hanno un sistema di lavorazione diversa, i due stadi finali sono in serie, non sono in parallelo, lui, la conosco come le linee tasche, io ho usato il 3002, il 3004, il 3006 e il 3009, cosa che tu il 3002 non l'hai mai visto, mentre io l'ho usato, ok? E sono completamente diversi. Se tu apri quella radio, quella, rispetto a quella che io ho dato a Franco per pezzi di ricambio, sono diversi i componenti, sono diversi. È inutile che tu guardi la parte dell'alimentazione, la parte del... Tu prova a guardare il PLL, il VGO e la parte del transistor finale, sono completamente diversi. Al PLL di cosa ne stai parlando? Dell'integrato? Dell'integrato che c'è sulla parte finale. PLL di solito, su questa radio qua, PLL cambia, se è a 34 canali o a 40 canali, cambia. questo, guarda, non lo so perché non mi sono mai informato, ma a quanto so io so che sono tutti uguali quelli dei 40 canali. Infatti ti stai dando la zappa al piede, perché quello ne ha 120, invece il tuo ne ha molti di più. Quindi se un PLL deve lavorare su tre bande e agisce su tre bande, il circuito integrato della parte di trasmissione è inferiore a quello che può essere il tuo. Quindi la parte PLL non può essere uguale a quella tua, è inferiore. Perciò è inutile che tu le dai 20 watt o le fai aumentare le MC, quando invece il PLL deve lavorare su tre bande sole. A cosa serve? Comunque ce la fai a leggermi, guarda che sono in parallelo i PLL, cioè sono due. Guarda se ce la fai a leggere la sigla, che io mi apro il mio. Vabbè, se non mi sai capitare li voglio mettere vicino a Fetti a vedere dove la differenza da quello a questo. Prova a aprire quello che c'ha Franco. Franco, non so se ce l'ha ancora la carcassa. Apri il tuo davanti e guarda, quello di Franco è un 3600, è uguale a quello, gemello, però è la prima serie. Tu guarda quello che c'ha Franco California, poi apri il tuo e mi dici se ho ragione o ho torto. Poi vediamo, poi io ti do lo schema, io ce l'ho lo schema di quella lì, l'avevo rilevato al computer, e poi te lo do e te lo guardi assieme al tuo a vedere. Vabbè, diciamo che il mio è diverso, sì, perché ho notato che questo qua, perché presumo che non è un typhoon, guarda, su questo ci posso mettere anche la mano sul fuoco, è il mio sto parlando, Franco c'ha il typhoon, ok? Però lui nei trimmer non ci ha segnato PVR, ALC, AMC, mentre io sì, sicuramente il mio non è un typhoon, ma è un tornado 4005. Quel tuo è un Galaxy Pluto e mi gioco il 140, io quello che vuoi. Il tuo è uguale al Galaxy Pluto, senza frequenzimetro, preciso identico, pronto a scommettere 100 euro. Io ti dico che è uguale anche al Tornado 4005, né più né meno, una scommessa. Tornado però, il Tornado, se tu sei bene, forse sei arrivato dopo di me, no? Il Tornado, l'ha fatto la prima volta la Galaxy, Luca, stai attento. È come la Sommer che ha fatto le radio prima della Yaesu, la stessa cosa. Ok, il Tornado è uguale al Galaxy Pluto, preciso identico. Al Galaxy Pluto l'hanno aggiunto solo il frequentimetro, punto e basta. Il Typhoon che c'ha Franco è uguale, preciso, identico al Galaxy Pluto, senza frequentimetro. È identico, a senso di identico, spiccicato. È un Connex 3006. Allora, aspetta, allora io cra, non so, in che anno era, 90, 92, fai 93, Stefano, il Tornado, e io ho visto che c'era scritto Intec, l'ha fatto dalla Intec, l'ha fatto la, quello che hai detto tu. Connex, dai, Intec e Connex, Matteo. Luca, lascia perdere, uno può mettere una marca di quello che vuoi, la Smart è Mercedes, quindi lasciamo perdere quello che può scrivere una persona, sono delle case costruttrici, oggi la Kenwood e Icom continuano ad avere il marchio Kenwood perché è così, Acciare Parodi non è più Acciare Parodi, è solo Acciaro, sto dicendo una coglionata, capisci? Quindi lascia perdere quello che tu vedi scritto, sono case costruttrici che si fanno praticamente si associano e chi è più forte, chi ha le maggiori azioni dice no, io impongo il mio marchio, poi vieni tu, se tu raggiungi le mie azioni allora facciamo una casa costruttrice uguale a quella che ho io, quindi non c'entra niente, però io ti posso dire al 100%, ma al 100%, forse anche al 200%, che il Typhoon è uguale a Lafayette, precisa, identica, ok? Perché Lafayette ha messo questo marchio Typhoon, come tutte le altre case costruttrici che sono nate dopo, va bene? Il Typhoon che c'ha Franco, che è della paillette è uguale al Connex 3006 e 3009, mentre il Superstar 3004 e 3006 sono diversi da quella che hai tu. Comunque per pace, non ti crea problemi. Ma per me è un apparecchio, voglio vedere, non mio tu apri il tuo, voglio vedere dov'è la... cosa c'è di tu. Ecco, io puntiglio, quando ho ragione, puntiglio, e quando puntiglio vuol dire che ho ragione. Siccome non sto puntigliando, così, per vederlo, tutto qua. E voglio vedere il finale che monta con la radio, se lo guarda il mio. Lascia perdere il finale, il finale è una cosa, può avere anche la stessa sigla, guarda la componentistica, prenditi una lente di ingrandimento, leggiti la componentistica, sono diversi, sono completamente diversi, se il finale è uguale è perché hanno un finale di trasmissione e ricezione che devono avere quei watt, perché il tuo quanti cazzo di watt deve avere? Ha 10 watt, 8 watt in AM e 15 in banda laterale, punto e basta, che poi tu l'abbia portato a 50 watt, questi non sono problemi miei, però quella radio di Pierpaolo, se tu la porti più di quella cosa e se tu tocchi quel trimmer, crepa il finale, perché non è abilitato per fare determinate cose. La mia non sale a 50 watt, la mia il massimo che sale in AM è 18 watt, 17 watt, fanno 18 avanti. E 25, forse di più anche, 27, 28 in mano laterale, ma l'ho portata perché rischio di crepare il finale, già stava così, portata a 12 watt modulati, figurati se la porta al massimo, si spaccano, perché non reggono. Vabbè, l'ho visto così, per me sono curioso di vederlo dentro come è fatto, tutto qua. Vabbè, là, ci stiamo a far vedere solo noi due, boh, no, andiamo avanti Franco. Mi sto prendendo il caffè, buonasera. Pigliati il caffè, la faccia mia figlia. Mi sto prendendo il caffè perché mi stavo dormendo, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, scusate se non ho salutato prima, ma non mi avete dato l'occasione. Se tu vedi questa, ciao Natalie, se tu vedi Superstar 7000 DX che ha tre potenze, quindi c'ha prefinale e finale, poi ne ha un altro, c'ha tre finali, c'ha due finali in serie e uno in parallelo col prefinale, ma c'ha tre potenze, dalla casa, Love HI, no, Mid, Love, Mid e HI, c'ha tre potenze, io lo vedo perché fa 15 watt in AM, 35 e 50 watt, ma ne ha tre però, come c'ha l'apparato che c'ha Natalino per farci capire, il mio eccetera eccetera, quello di Franco, così, ne ha tre, c'ha due prefinali sullo stadio finale in serie e uno stadio finale che eroga i watt che tu le dai quando aumenti, quindi è diversa la cosa, con dissipatore grande dietro e la ventola, allora stiamo parlando di un'altra cosa, va bene? Ma una radio così, con un dissipatore così piccolino, che non dissipa un cazzo, senza ventola, quando tu, anziché 10 watt dalla casa, ne dai 16, lo stai crepando, perché il picco di modulazione sul prefinale, allora sai cosa vuol dire? Che te la gribba la radio, è un'altra cosa. Poi ognuno è libero, ripeto, quella roba sua è fare quello che vuole, però io quella radio, da nuova, è quella che c'ha Pierpaolo, è nuova, non è mai stata cagata da nessuno, non va bene fare quelle modifiche, non va bene. Ma che è? Abbassa, non ti capiscono. Ma che è prima le 8? No, c'ho il televisore spento, non sto guardando niente. Sì, è fatti così. No, è possibile. Volentieri al secondo. c'è davanti c'è Stoner. No, ma c'è quel cazzo di cutizzani. Stoner è dietro a Valentino. Ma che cazzo c'è il primo allora? Sì, che Valentino è partito nomi. Le andate da vedere. Sì, che Valentino è il secondo, ma è Stoner è il terzo. Siccome davanti c'è Capirussi. Oh, non lo so, so che era undicesimo del partito. Del partito nono. Poi non l'ho seguito stamattina perché non c'è. Valentino è perché è negozi. Cado una salda. Che se è. Troppo si è aperto. Mi lo vedi. Non è la passata. Ma io volevo sapere chi c'è il primo. Non penso che sia Capirossi. No, coso è. Aspetta, c'è un nome strano. Petrosa mi pare. Petrosa? Sì. Petrosa. Petrosa è primo. Valentino sta passando al secondo. Ma ce la fa a prenderlo. Valentino è al secondo adesso, la Stoner l'ha passato in curva. Anzi no, il rettilineo l'ha passato. Petrosa ha detto se passi ti ammazzo, quindi deve passare il primo per forza. Ma cos'è Recicendi, Rugabu, cioè ma niente. Di là tutti. A sapere, bravi, Valentino non ce n'è solo uno. E infatti. Tu hai attaccato a Pedrosa, che è Valentino Rossi, non è Valentino Rossi. Questo non c'è dietro, questa volta lui è Valentino. E davanti a lui c'è il coso, Stoner. Pedrosa è terzo allora, non è primo. Non lo so, guarda che tu è primo Pedrosa. Pedrosa è primo, Claudio. Pedrosa è chito con la moto arancione, primo è. Il secondo Stoner e il terzo è Valentino. Mi abba, Pedrosa, Stoner e Rossi. Non lo vedi? Vedi a coso, a Valentino. Che non ce la fa a passarlo. Cioè, se ripugiati Valentino, ma me la va a trovare, va. Guardai che arrivi primo, guardai che vince Valentino, va. Tu dici che vince, che tu dici che Valentino sta riposando. Guarda se cioè Valentino riesce a passare la Petrosa. Se lui passa, riesce a passare a coso, a Stoner, vedrai che ti manca la Petrosa. Vabbè, io lo sto seguendo perché qua c'è il televisore 24 ore su 24. Comunque buonasera a tutti, dai. Ma ecco, cadi vai. È vero, non potigliare con me, che la mangia il cervello, quello lì. Ma che sbaglia il cervello. Allora, non lo vedi che ha fatto un chilo di cocca prima di entrare in gara? No, 7 chili di cocca si ha fatto di Nutella con la marmella, E continuo, ma non è quello. Io vado a farmi un cannone adesso perché sono stanco. Sì, mi basta il cannone. Ciuppala, che è che chiama? Pierpaolo? Ma ci senti dalla radio, Pierpaolo? Che bello! Io vado a fumare qua, un attimo, vado a prendermi una fumogena. Ehi, ehi, ancora c'è un tu? Ma è bassa, era meglio prima. Aumenta, adora, dici, cazzo, ma non ti dico più nulla, fai mettere dei biasi. Aumenta, sei in basso di radio, lascia perdere, andavi meglio prima. E allora non ti dico più nulla, esci come ti piace, io ti ascolto basso di radio, segnale 9:20, la radio non mi piace, bassa. Thank you. ci ha battuto la scarica, non so cosa dirti. Ti ascolto, non so che cosa fai, Antonio, te l'ho già detto stamattina, io non lo so le tue manovre, io non tocco niente qua, io accendo il baracchino, schiaccio il microfono, e buh. Io a volte ti ascolto molto più forte, non so se trasmetti dalla radio di tuo padre, non lo so, devi essere tu a dirlo, io adesso ti ascolto più basso di prima, buh. Va bene, 5 è perfetta, ma non è forte forte. Allora io ti ascolto con quell'altra radio più forte, qua ti ascolto più basso. Claudio. Oh. Poi faccio una differenza, guarda, questo è il Tornado 34, adesso provo altri apparecchi e mi dai conferma la radio quale è più forte, questa o l'altra? Prova. Senti se ce lo leva male, va bene. Quando tu sei più forte vuol dire che sono buono per radio. Che fare? Si conferma. Avanti Franco. Ma questa la radio c'è migliore dall'altra. 1, 2, 3. Questa è molto più forte, quasi due volte. Questo è il Cobra, Il 40 canale malogato. Molto, molto più forte dell'altra. Abbassa appena appena il microfono. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 5, com'è? Troppo l'hai abbassato, aumenta. K, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Più forte dell'altra. Quello è il Tornado. Adesso voglio fare un passaggio con la Fayette Typhoon. Un attimino, a vedere se la radio è uguale a questo o più forte. Prova con la Fayette Typhoon, prova, poi te lo dico io. K. No, già chiedo, se non provano drome. E facciamolo provare, male a lui. Per il territorio Sardegna questa è la numero uno. Sono rettilineo, non ce la fa a fregarlo, perché è più veloce la moto di Pedrosa, a Futtidini. Rossi lo può prendere solo in curva perché si azzarda di più lui. Che cavolo c'è, non è faccia a Pedrosa? Bravo, bravo, bravo. Devo cercare di decidere che possibile per prenderlo almeno. Poi posso recuperare un casino, dove ti riparisci un po' con la verruca e stavolta, cosa che è possibile. Poi non vede delle camere russi, non c'è, oggi non c'è. Oggi è Pedrosa Stoner, non c'è niente da fare. Guardami. Guarda la differenza che c'è dei tempi, guarda, lo stai guardando, Stoner Rossi, a bella ragione, mi sono tre secondi, cioè tre minuti addirittura ci sono. Ah, va, tre minuti di cazzo. Ah, ti danno il morto e gli è stata tu. Non credo. Determinate cose. cose, hai capito? Però sui ritirini la moto di Pedrosa, quella di Valentino, se la mangia. Guarda che Pedrosa come pilota è bravo, non è un pilota da mettere indietro a Valentino, Certo, bravo, tu sei tutto esatto, cosa hai fatto? Io sto usando l'apparecchio col pericoma. Sto sento male, è un bel forte qua, Aspetta un attimo, abbasso la situazione, così meglio mi ha ascoltato. Prova. K123. Il secco vero, bravo. Io andava per il secco. Sì, strano, compressa. Compressa, che siamo troppo vicini, capito? Aspetta. Andati a me, siamo troppo vicini. Aspettate un minuto. Un secondo solo, sedete e calma. Pierpaolo. Prova. Lasciala stare così. Cos'hai toccato? Secondo te qualcuno in questo momento ha qualcosa a dire? Prendo la radio e la butto all'ultimo piano. Lasciala stare così com'è. Adesso va, è perfetta. Beh, la spinta è... Mi chiedi, tu non c'eri. Quando lui ha fatto quell'operazione là, io gli avevo detto, per poi io così me non ti ho mai sentito. Quando ha fatto quell'operazione della AMC. Guarda, era un bombo. Secondo te perché sto scendendo bene adesso? Perché è pulito. Perché lo stadio finale sta lavorando così. Quindi l'LC sta rispondendo sul microprocessore come deve rispondere, punto e basta. Io non aggiungo altro. Poi vai di chi su chi vi piace, tutti quanti. Mi ritiro da qualsiasi discorso, punto e basta. Non sto dicendo niente, non ho detto, niente di male. Stiamo solo parlando, non è essere dovremmo bucare luci. Tu stai dicendo la tua, io sto dicendo la mia, tutto qua. Perfa, cosa hai fatto? L'hai abbassato la MC? Messo come gliel'ho dato io e così deve funzionare quella radio, Luca, io rispondo così, perché ogni volta che io parlo ed esprimo il mio parere, dicendo le cose alla gente, certo tutti si incazzano, quindi fede chi sono arrabbiati, per me un baracchino meglio di così non può uscire, punto, fate quello che volete, non intervengo più. Vabbè, lascia la luce per poi non ti dica. Va bene, io ripeto, se l'ha detto come la prima la mia fa schifo, non esce, vabbè, tocchino un pelino, non esce. Infatti qui io stavo temendo che vai aprendo quel coso lì, di crepare il finale, e poi grazie a Dio è più di un anno così, non si è crepata ancora. Capisco, cosa vuol dire? Comprato le tasche mie. Cosa c'è? quello che stai adoperando, cosa c'è di originale, originale? Di originale, originale? No, è una cazzo, è originale, tra. Il microfono... se ne sono, no? Non capisco cosa vuoi dire. Il microfono modificato, la radio modificata, aperta, toccata, fatta, e va bene così. Io non c'ho niente di toccato. Microfono originale, con il cotone nella calza, il baracchino originale, tutto originale. E funziona bene, lo stesso no, per dire, perché uno deve toccare le cose quando vanno bene, punto di domanda. Allora, se vuoi ti faccio la prova, io non ho problemi, io ti riporto un baracchino come me l'hanno dato, ho toccato solo quelle, appena appena di watt, prima erano 5 watt, 6 watt, adesso ne saranno qualcosina in più. Io te la riporto ora prima e ti faccio sentire che questa radio non esce, esce bassa, con questo microfono, oltretutto che è modificato, esce bassa. Perché quella radio che tu hai comprato, senza offese, perciò non parlo più, stiamo parlando, stiamo facendo questo, vuol dire che l'hai comprata già manomessa, ma quella di Pierpaolo, quella radio, l'ho aperta io, era dentro la scatola, ok? La scatola ce l'ho io qua a casa, è stata usata 3-4 volte, non è mai stata toccata, è inutile che lui la tocchi, il giorno che lui ha attaccato il tane più 3, che io gli ho detto guarda che le connessioni sono uguali a quelle del Typhoon, e lui ha fatto così, quella radio non ce n'è per nessuno, esce benissimo, è la miglior radio che io ho sentito nella 27 col tane più 3, e senza offesa per nessuno, meglio della mia, meglio di quella tua, meglio di quella di Franco, meglio di quella di tutti che usano quel tipo di baracchino, e non ce n'è, non ce n'è. Se uno va a toccare per peggiorare, non per migliorare, cosa cazzo va a toccare? No, stai proprio sbagliando, la miglior radio, la miglior radio, contarne tutte quelle di Roberto Quadrato, non me ne fa nessuno. Io non ho mai sentito qualcuno qua contarne più tre, meglio quella di Roberto, assolutamente. Dipende dalla radio che tu usi, se io uso un Alan 48 col tane più 3 ti faccio vedere che a Roberto me lo mettono a sedere, ok? Dipende dalle radio che usiamo, per fare le comparazioni di radio e di radio stessa bisogna usare le stesse radio, tu con l'Alan 48 il tane più 3, io con l'Alan 48 il tane più 3, tu usi un Typhoon, io uso un Superstar col tane più 3 e vediamo qual è la modulazione migliore. Se usiamo le stesse radio, se usiamo le radio diverse, una APLL e una quartzata, stiamo dicendo stronzate. Però Roberto non c'ha il turner sul 48, attenzione, c'ha il turner su un apparecchio base. Quello che gli ho dato io, gliel'ho venduto io a Roberto, gliel'ho comprato io a Roberto quella radio. Inizialmente usava l'MB più 4, poi gli ho detto procurati un tane più 3 perché io quella radio lo usavo col tane più 3. Siccome il tane più 3 io non gliel'ho dato, lui ha usato, ce l'ha ricomprato il tane più 3. È un altro tipo di discorso, ma quella radio è quartzata, non è APLL, ok? Non lo so, Cla. Se è quartzata o PLL, non lo so, questo non te lo so dire. Comunque la miglior radio che ho sentito voltarne più tra la sua, tutto qua, è bella veramente la radio, ed esce di blu su di pulito, secondo il mio parere, attenzione, esce meglio voltarne o quel baracchino che col Kenwood. Allora lo uso io il Kenwood, che era il mio, gliel'ho venduto io con l'MC60 e poi facciamo le comparazioni. Se uno, ribadisco sempre quello di prima senza offesa per nessuno, attenzione, se no chiudo qua il questione e non ne parliamo più. Se uno sa toccare e sa usare la radio, parliamo di HF, allora facciamo le comparazioni che vogliamo. Io uso qualsiasi tipo di HF e te la uso in una maniera tale da poter far capire alla gente come si usa, va bene? E poi do dei consigli e ne accetto nello stesso tempo, ne accetto, nessuno è nato imparato. Se poi parliamo di baracchini, dipende da baracchino a baracchino, da timbrica di modulazione, perché io ce lo sto usando adesso un MB più 5 che è il microfono più schifoso al mondo, lo sto portando in questa maniera, non è modificato, non ha niente da toccare, nulla, un po' di cotone nella calza, punto e basta. perché esco così e gli altri invece escono cupi, escono metallici? Oh, più 4, più 5 e tranne più 3, anzi di più 5 ne ho 2. Quindi tu non sapevi che questo era il più 5, questo alterna il più 5, cioè l'MB più 5. Ok, se vuoi ti metto l'MB più 4 e mi dici qual è la differenza, non c'è problema. Più 5 ce l'ho sempre avuto. Ho comprato l'MB più 4 nuovo assieme a Franco per usare con quel baracchino che c'ha adesso tuo padre, però siccome ha le stesse connessioni, perché le ero cambiate, se vuoi te lo faccio sentire. Questo è l'MB più 5, adesso ti attacco l'MB più 4 e mi dici dov'è la differenza, oppure non ti dico niente, me lo dici tu quale microfono sto usando. Rispondo con questo microfono. Che microfono è questo? Che microfono è questo, Luca? Luca? Che microfono è questo? Franco, che microfono è questo? Che parli di ciò? Il microfono è questo, Franco. Come tu cosa hai detto, Antonio? Luca, non c'è Luca. Luca, che microfono è questo? Più 5 nel tane più 3. Questa è Super Siderick della Sommerkamp. Vedi bene? Non chiudete il microfono al tavolo, Antonio. E posso cambiare quando voglio e nessuno si accorge, perché, ripeto, ribadisco, senza offesa per nessuno, a dare i controlli bisogna stare molto, ma molto attenti del radio, ma un bel attenti, però. Vabbè, la facciamo, stiamo, mi mangio un bel dubbio di cose, di... ma adesso mi viene il nome di zuppa inglese. Vabbè, che microfono è questo, Luca? Vai, vado a vedere. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, che microfono è? Che microfono è? Se non sbaglio, forse mi sbaglio, è meglio più 4. Questo non è nel più 4, nel più 5 e nel più 3. Questo è Super Siderick della Sommerkamp, che è un vecchio microfono attacco a 4 che usavo col Sommerkamp FT101. Vedi bene? Dove cambia? Che cosa cambia? Quanto era più forte la radio? Può fare la più forte col Turner, con l'MB più 5, perché c'ha le tonalità. Questa tonalità non ne ha. Capito? Però 5-6 giorni fa tu personalmente mi hai detto che questo microfono era più forte addirittura del tane più 3. Io aspetta un attimino. Che se stessi rocchi, aspetta. Allora, tu l'altro giorno stai usando l'MB più 4, ok? E ti ho detto che non andava bene. Era, non so, forse cupo, boh, faceva effetto malato un po' là. Poi avevi cambiato microfono, avevi messo il Turner, mi sembra, se non mi ricordo male. Di questo microfono qua non me ne hai parlato tu a me. Infatti, l'ho preso poco fa, lo stavo usando. E tieni conto che questo io ce l'ho a 2, lo posso portare così, ola, ola, ola, ola, ecco. Così ce l'ho a 5, 6, 7, 8, 7, avanti, teniamolo a 7. Facciamo la nuda. Mettiamolo a 8, 8, ecco qua, a 8 non c'è cambiato niente. Ah, un pelino aumentato. Mettiamo la 9 e mettiamo la 10, così a manetta. Ecco, così si ha i belli dell'altro, dell'MVP5. Tieni conto, questo c'è la batteria forse 2 anni che non praticamente non l'ho mai cambiato. Vabbè, comunque che va bene, spica. E la radio è buona, perciò qualsiasi microfono che ne metti va bene. Ok, va bene così. Adesso io cambio di nuovo, tolgo questo Super Sideric della Sommer che metto un altro microfono e poi mi dici qual è, va bene? Ma mi sembra di animare culo, già ci ho aumentato il colpo alla radio. Perché ho sollevato la potenza. Questo va bene, questo va bene. Praticamente è come quella poco. Devo fare la 10 watt, adesso l'ho messo a 35 watt. Però lo metto la 10. Guarda, così sono a 10 watt e così sono a 35 watt, ok? Non sto toccando il microfono, 10 watt, 35 watt, 50 watt. Allora, 35 watt è più forte, 50 watt non dite nulla, non dite più nulla, a 35 aumenta un bel anche la radio. Non sai perché? Perché sulla potenza c'è il controllo automatico dell'LC, come il 140, preciso identico. Allora, facendo, come si dice, un... fanculo, mi viene la parola. Vabbè, se tu fai la prova con Franco e lui usa il telefono, con l'MB5, tu te lo mangi. Io sto usando adesso l'MB5. A 35 watt, il microfono è a 4, ok, così invece a 10 watt, così a 35 watt, poi te ne accorgi a segnale, se tu chiudi le referenze io non ti sto prendendo per il culo, così a 35 watt, così a 10 watt, K. A 10 watt ti mandi a Franco, come al radio, se lo metti a 35 te lo mandi tu a lui. Bene, perché questo Superstar ha il controllo automatico dell'LG sulla potenza, come c'hanno le radio grandi, capito? Ma è un bestione, non è un giocattolo, è un bestione, una bellissima radio grande. Lo stesso procedimento di questa radio ce l'ha Pierpaolo, la stessa cosa, ok? Però lui ce l'ha tra la MFM e le bande laterali, il controllo automatico dell'LG. Quindi se lui automaticamente mette, aumenta i trimmer di quel microprocessore, la modulazione va in saturazione e te l'ha già fatto vedere. Se invece lo tiene normale, lui cosa c'ha? C'ha 10 watt in AM che sono più che sufficienti, però in banda laterale, avendo il picco massimo di 15-18 watt, la modulazione non cambia, è sempre molto molto forte. Me l'hai detto anche tu l'altro giorno. Se lui va in FM è una modulazione perfetta. Se lui dovesse usare l'FM come aveva poc'anzi la radio, tu lo intendi un montone di merda. E cappagaffa. No, vabbè, in realtà io sono notato che mettendo a 10 watt cala un po' la radio, quando tu le dai 35 watt aumenta la bellezza, ma un bel forte. Perché c'è il controllo automatico come quello di Pierpaolo, capito? Ed è normale, ok? Perché se Pierpaolo dovesse andare in FM con quella posizione che aveva poc'anzi, tu le dici sicuramente al 100% che non lo ascolti. Comunque va bene, non c'è problema, quella radiocettura è un bombo. Io Pierpaolo lo sento bene, ce l'ho sentito bene poco fa col Turner. Non so come l'ha fatto, perché il segnale era più basso. Era più basso. Vediamo un po' più fatto. Prova. Il segnale è più basso, la radio è chiara, chiara, bella, prepotente, bella, forte. Non ce n'è per nessuno. Va benissimo, ti ascolto bene Pier Paolo, non ci sono problemi. Ah, no, vedete che Radio Super 5 è ottima, buona. Ciao, brava. Questo è contato però, adesso non è di Emilia. Sì, va bene, ma ti ascolto benissimo Pier Paolo, non ci sono problemi. Adesso ho cambiato nuovamente il microfono. Più forte è questa, è Luca dell'altra. E questa è bella. L'MB più 4. E questa è bella. E fa, a me, ripeto, attenzione, se dobbiamo fare discorsi, non voglio nel modo più assoluto che nessuno si offende, perché se a me mi dite quel microfono è cagato, io non mi offendo, lo prendo, lo metto a parte, ne uso meglio di quello, non ci sono problemi, naggio il microfono. Però se tu a me dai retta, ma a livello così come consiglio, per carità, lasciala così com'è con la radio, che è importante uscire bene di radio e uscire basso di segnale, capito? È meglio averne 10 di watt che averne 20 e esce tutto gracchiante. Questa radio è bellissima, bella veramente, ok, so se è bella, per conto mio, poi non lo so. Dai, no. Siccome il giorno scorso mi avete detto che andava bene, l'ho lasciata così. Adesso ho tornato a tutta l'originale e rimane così. Franco! Per me va bene così. Oh Pierpa, poi ti ripeto, puoi fare quello che vuoi, la roba è tua, problema non ce ne so. Io quando devo dire una cosa dico in faccia, senza offesa per nessuno. Per me, meglio di così, col baracchino non si può uscire. Franco, qual è il tuo? Sta andando a mangiare una merendina. Ah, io non faccio, ma ti mangio un piatto di verdura ricca, un paio di polpette, un piatto di carabini. Adesso mi ho detto un pezzo di cotto di zuppa inglese, ma saranno di più grande. Si dovesse bruciare, ce ne vale la pena, c'è la giusta, ci sono i biglietti da una mondetta. No, ti posso dire che già un anno così. Certo, se non si arrivate così crepa sta cosa. Ma che non si crepa. Papà, sì, ma va bene. Io Pierpaolo, per come ha lui quella radio, avrei voluto che lui si procurasse, anziché fare delle modifiche particolari, un bel BV131, un bel BV130, a una valvola con la potenza di quella radio, un ingresso a 10 watt, lui è arrivato, perché quando ha dei problemi non fa altro che inserire l'amplificatore, dalle 70-80 watt, belli, accordati e con tanto di accordo, e tu stai pur certo che a lui lo ascolta tutta la Sardegna, guarda. Sono convintissimo al 100%, perché così modificando la radio aumenta il segnale ma comprime la modulazione, automaticamente in distanza a me mi hanno sempre segnato che il segnale può essere zero, ma quando tu c'è la radio 5 arrivi da tutte le parti. Più basso sono il segnale adesso, vero? No, no, sei sempre lo stesso qua. Magari noi siamo troppo vicini, da Lucario è più basso, è vero? No, siamo lo stesso. Quindi vedi bene, uno più uno fa due, Anto, già ci siamo capiti, dai. Ci sentiamo più tardi che mi sdraio un po'. A più tardi, ciao a tutti, buon proseguo di questo. K, passo e chiudo. K,